La carta del vento, la carta dell'ombra, la carta del fulmine, la carta del fiore, la carta dello splendore, la carta del cerchio, la carta del canto, la carta della forza. Quante carte hai davanti a te, mia dolce Sakura? Tua carta.